giorno in cui sedesti in riva al mare, dal giorno in cui accarezzasti la gazza e toccasti l'albero. We'll be right back. E intanto volevo ricordare che abbiamo ascoltato alcuni brani voce. Portando la tremenda voce di una cantante femminile. Passa. piccolo potrò sembrare insignificante. Insignificante. Tu però mi sei accanto. lasciami morire nel tuo cuore. Io non sono come voi. Prima parte. Letture tratte dal romanzo di Marco Boba, Io non sono come voi, Eris Edizioni 2015. La PM Pedrotta del Tribunale di Torino, lo scorso 12 maggio, ha richiesto per questo romanzo 2 anni di sorveglianza speciale per l'autore in virtù della sua pericolosità sociale. Buon ascolto. Nell'attesa del secondo iniziamo a chiacchierare senza approfondire i discorsi, poco più di una presentazione di noi stessi. Fino a quando Giulia non dice che lei a Roma in passato ha frequentato il Forte, uno dei più vecchi centri sociali occupati d'Italia, ma negli ultimi tempi ha anche bazzicato il cortocircuito. Mi si rigidiscono il collo e la schiena, poi conoscendo già quale sarà la risposta, cercando di mantenere un tono neutrale chiedo: se non sbaglio, il corto è quello che a Genova era con le tute bianche, vero? Sì, perché? No, così, ho un po' di antipatia per le tute bianche. Come mai? Che problemi hai con loro? Ascolta, stiamo mangiando, non ho voglia di rovinarmi né l'appetito né la digestione. Se vuoi ne parliamo in un altro momento. Riesco a dire questa frase in tutta calma, mettendo a freno il mio temperamento, perché dentro di me un po' di rabbia sta montando, anche perché, da come parla sta ragazza, è ben contenta di appartenere a quel mondo e pare ci si trovi a proprio agio, per cui non ne vuole sapere di troncare la discussione che si sta facendo peppata interessante e insistente col chiedere «Dov'è il problema?». Mio malgrado devo risponderle. Diversità sulla visione delle cose, sogni diversi, metodi di lotta differenti, la diversa visione della vita e tanto altro che, ti ripeto, ora non ho voglia di spiegarti. L'arrivo del pesce spada segna la tregua, per ora gli animi si placano. Mino e Laura sono incuriositi e allo stesso tempo preoccupati per la piega che sta prendendo la cena. Provano a parlare di cibo, ma il silenzio regna mentre si mangia. Con la pancia piena e il vino in corpo, le tensioni si allentano, ma questa quiete dura ben poco. Giulia, con tono provocatorio e con malizia, ricomincia. Allora, ti è venuta voglia di parlare o mi vuoi lasciare a bocca asciutta? Colgo il doppio senso di quella domanda e sento anche che mi viene lanciato un amo, ma le rispondo secco. Mi sa che questa sera ti lascio a bocca asciutta, sonno, sono stanco e perciò vi saluto e me ne torno in albergo, però se domattina ne avessi ancora voglia potresti accompagnarmi, devo fare delle commissioni e andando in giro potremmo chiacchierare un po', ti dirò e ti spiegherò tutto ciò che vorrei sapere, chiedi a Mino il mio numero, se non verrai vorrà dire che non era cosa e non ci rivedremo più, perché il domani poi parto e vado a Vulcano e ti resterà la curiosità. Buonanotte a tutti, Mino, ci sentiamo domani, è stato un piacere conoscervi, belle signore, ho passato una bella serata. Cammino parecchio prima di entrare, solo e mezzo ubriaco per il vino bevuto. Mi accompagna la tristezza, una sottile e velata ma infinita tristezza, il mio pensiero va a Noemi. Ricordo quando era partita da Torino per raggiungere me, che arrivavo dal G8 di Genova, c'eravamo congiunti a Recco. Quel sabato ero tra quelli che si erano scontrati con la polizia, avevamo distrutto e incendiato le banche. Ero pieno di rabbia per il morto ammazzato dai carabinieri il giorno prima, ma in me convivevano però anche l'euforia e la gioia che provo a scontrarmi con gli sbirri. Mi piace l'odore dei lacrimogeni, seppure facciano star male. Mi piace vedere e sentire la folla incazzata, mi inebrio dell'odore della benzina, mi dà un estremo piacere vedere i vetri delle banche frantumarsi sotto i colpi delle sprangate e delle pietrate e ancora di più godo nel vederle bruciare. Tutto ciò Noemi non lo comprendeva e soprattutto non lo approvava. Tutt'oggi mantiene questo pensiero, ma quando l'avevo chiamata mi aveva raggiunto, ricordo perfettamente quella telefonata. Ciao, sono Francesco, sto bene, sto tornando indietro, vado al campeggio e poi cerco di uscire dalla città il prima possibile. Va bene, parto subito, ci vediamo a Recco. Chi arriva prima aspetta l'altro. Tu tutto bene, stai bene? tra quanto arriverai? Sto bene, stai tranquilla, ci metterò un po' perché il campeggio è dall'altra parte della città, poi da lì dovrò prendere qualche pullman. Vabbè dai, ci vediamo dopo, ciao. Avevo rifatto all'inverso tutto il percorso del corteo, solo e preoccupato. Sopra di me ronzavano gli elicotteri. Ogni tanto, in luoghi e momenti inaspettati, incrociavo gruppi di ogni sorta di sbirri, finanzieri, poliziotti e carabinieri. Non vedevo l'ora di allontanarmi il più in fretta possibile dalla zona dei disordini. Ero vestito tutto di nero, scarpe, pantaloni e maglietta. Mi ero tolto la bandana dal collo e l'avevo rimessa in tasca. I miei vestiti puzzavano di gas lacrimogeno. Il casco l'avevo abbandonato quando la folla in fuga dalla carica degli sbirri mi aveva quasi travolto. Mi ero ritrovato circondato da più poliziotti. Intorno a me fumo, urla e manganelli. Mi ero già visto malmenato e arrestato, invece... E ancora non mi capacito come sia stato possibile, sono riuscito a scappare. Davanti a me, di un paio di metri, c'era un celerino e più o meno alla stessa distanza altri due gli stavano ai fianchi e alle spalle c'erano i blindati. Ero rimasto immobile a guardarli e sembrava che loro non mi avessero visto perché avevano proseguito la loro caccia all'uomo massacrando altri, così ero riuscito ad andarmene. Per tutto il percorso rivivevo quella scena, camminavo veloce sotto il sole, il rumore degli elicotteri era sempre più un rumore lontano, ma continuavo a non essere tranquillo. Finalmente ero arrivato al campeggio, che in realtà era una scuola nei cui giardini e interni avevano dormito molte centinaia, se non migliaia di persone. Non c'era ancora nessuno, avevo volato malgrado la stanchezza, il caldo e il male ai piedi. Ero arrivato tra i primissimi e mi ero stupito di non trovare quasi nessuno. Qualcuno dei miei amici avrebbe dovuto essere lì, ne ero certo perché al mattino, a metà corteo, molto prima degli scontri, un mio amico si era sentito male ed era tornato indietro. Cercando lì in giro, qualcuno mi aveva detto che poco prima c'era stata la polizia, avevano portato via tutti i presenti, una decina di persone, avrei saputo in seguito che erano tra i fortunati finiti a Bolzanetto. Poca cosa rispetto a quello che accade quella notte alla Diaz. Avevo rivisto il mio amico in TV quando era uscito dal carcere di Alessandria qualche giorno dopo e poi qualche mese dopo ci siamo incontrati in un concerto e mi aveva raccontato le ore allucinanti vissute a Bolzanetto, botte, minacce, manifestanti costretti a restare in piedi per ore e ore impedendo alle persone trattenute in quella caserma anche di andare in bagno. Nell'attesa del rientro degli altri miei amici con cui avevo perso il contatto durante la carica mi ero sdraiato nell'erba per riposare un minimo. Alla spicciolata erano rientrati tutti quanti e fortunatamente tutti sani. Poi, più sereno, ero subito ripartito cercando e trovando un autobus che andasse a Nervi e da lì avevo proseguito in treno fino a Recco, il tutto con la paura di venire fermato o arrestato. Ero rimasto in tensione fino a che non ero salito sul treno e mi ero rilassato completamente solo quando era cominciato il movimento. A Recco lei era lì che mi aspettava, era arrivata da pochi minuti e portava con sé dei fichi appena colti perché sapeva che mi piacevano. Avevamo passato uno splendido fine settimana, avevamo cenato a Camoglia e dormito a Rappallo, il giorno seguente l'avevamo trascorso alle Cinque Terre. Era stato tutto bello, da quel momento avevo iniziato ad amare veramente Noemi. Prima di Genova tante parole, anche perché del mio mondo non conosceva molto. Avevo dovuto spiegarle la composizione dei gruppi che avrebbero partecipato al G8 di Genova, per lei si era tutti in oglobe o tutte bianche. Un gruppo antagonista nato dall'eredità di Autonomia Operaia degli anni 70-80, sviluppatosi nei centri sociali soprattutto nel nord-est italiano e con affiliazioni anche in altre città. Tra le varie anime del movimento erano il gruppo più presente sui media. Questo proprio per la scelta figlia di questo nuovo modo di essere mediatizzati, ossia cercare sempre la spettacolarizzazione dello scontro, farsi riprendere e filmare in tutti i momenti di conflitto. A volte cercare di proposito la simulazione dello scontro. Tutto questo avvenne soprattutto nel periodo precedente agli eventi di Genova. Le tute bianche erano così chiamate perché al fine di non essere individuati singolarmente, tutti i militanti partecipavano ai cortei con le tute da decoratore usa e getta di colore bianco. Scendevano in piazza con il corpo imbottito da protezioni autocostruite in gomma piuma e plastica, portavano grossi scudi di plexiglass con cui fronteggiavano le forze dell'ordine. Dopo qualche secondo di questo spingi spingi, ripresi da cameraman e fotografi, finiva tutto. Nelle settimane che precedettero i giorni del summit, tutto il movimento antagonista venne identificato dalla gente comune, dai giornalisti e dalle forze dell'ordine con le tute bianche. A creare questa situazione, le continue dichiarazioni del loro leader portavoce Casarini, e con grandi promesse, rimbalzate da ogni media, proclamava la violazione della cosiddetta zona rossa di Genova, l'area al cui interno si incontravano i grandi della terra. Era impossibile penetrarci all'interno, in quanto ogni via d'accesso era completamente sbarrata da grossi cancelli in ferro e presidiata da ingenti forze dell'ordine. In realtà c'erano altre migliaia di persone che con le tute bianche non avevano nulla con cui spartire. persone con una radicalità, rabbia e determinazione ben differenti, persone che attaccarono fisicamente e realmente i simboli del potere e del capitalismo, gruppi anche molto diversi tra loro, ma tutti lontani dalla logica dello spettacolo mediatico, i cosiddetti Black Bloc, allora inconsapevoli che anche loro erano ormai parte dello spettacolo in un tempo in cui tutto è immagine. Comunque, io ero e sono restato uno di loro e questa cosa ha sempre mandato fuori Noemi. Finora abbiamo lesinato le parole, ci siamo studiati vicenda cercando di comprendere come sia l'altro veramente. All'improvviso, e guardandomi seriamente negli occhi, Giulia passa l'attacco. Allora, piemontese, me lo spieghi il tuo punto di vista? Cosa ti devo spiegare? Parlartene ora è una doppia fatica, perché non ne avrei voglia e perché nell'ultimo periodo mi sono allontanato dalla militanza e dire che ho iniziato a 15 anni. Comunque, dovresti arrivarci col tuo cervello, mi sembri una persona intelligente per capire, comunque ci provo. Ma non sono un politicante, non sono un oratore, partiamo dal punto che sono nemico di questo presente in tutte le sue forme. Nemico del capitalismo, di chi governa in ogni sua forma, che sia democrazia, dittatura o socialismo reale, sono nemico dei media, delle religioni e la lista potrebbe durare ore. Non ho un progetto politico e al momento neanche voglio avercelo. Quello che fanno le tute bianche né mi piace né mi interessa, non mi ci trovo, non mi coinvolge e sono loro che si sono arrogati l'idea di rappresentare il movimento. Gente presuntuosa e la cosa peggiore è loro cercare di estromettere dalle lotte quelli che hanno un punto di vista differente, specialmente quelli molto più radicali di loro, e lo fanno in più maniere, in piazza facendo la funzione degli sbirri, a livello mediatico, meno male che ogni tanto i loro piani saltano. Mi osserva ma non parla, ascolta e continua a studiarmi. Io odio, dentro di me, c'è solo voglia di distruggere, le mie sono pulsioni nichiliste. Per la società, per il sistema, sono un violento, ma ti assicuro che per indole sono una persona tendenzialmente tranquilla. La mia violenza è un centesimo rispetto alla violenza quotidiana che subisco. Che subisci tu o gli altri miliardi di persone su questo pianeta. Se in un corteo o magari di notte attacco con violenza una banca, una multinazionale o un'autoconcessionaria, è solo per potermi ancora guardare allo specchio e dirmi che perlomeno non ho subito passivamente. Ho parlato con veemenza, lei mi pungola con tono tranquillo. Passivamente cosa? Pensi che sia così che si cambia il mondo? Che fate la rivoluzione? Mi prendi per un idiota? Lo so che non lo cambio così il mondo, ma neanche manifestando come ci dicono loro di farlo. Per loro intendo i media, i politici, le istituzioni, insomma, quelli che dicono di comportarsi civilmente, in modo democratico, pacifico. Ma questo è ancora un altro discorso, stavo parlando di violenza subita. Tutti i giorni respiriamo aria avvelenata, mangiamo merda, cibo industriale manipolato che fa più danno che nutrimento, beviamo acqua arricchita di pesticidi e veleni vari, in ogni ora sei bombardato da radiazioni e onde elettromagnetica e non lo scegliamo noi, ci viene imposto, questa è la vera violenza, quando non si ha la possibilità di decidere o scegliere o la possibilità di poter cambiare. Continuo a guardarmi con quegli occhi che sembra stiano facendo una scansione attenta delle mie parole, pur non condividendo i concetti. Continuo più tranquillo. E poi ci sarebbe anche il discorso di noi fortunati che viviamo nella civiltà evoluta. Forse sarebbe più giusto dire sopravviviamo. E a sentire chi ci governa stiamo tutti molto bene. Però a discapito di quei tre quarti di abitanti del pianeta che vivono in miseria. Il primo mondo che sfrutta, avvelena, inquina, distrugge, saccheggia, affama. Questa che cos'è? Come la chiami? Non è la violenza. Non è violenza. Dentro di me c'è solo voglia di distruggere, non ho voglia di parlamentare per avere uno sfruttamento un po' meno cattivo, più equo, non ho voglia di lottare per avere cibo che resta avvelenato, però viene avvertito che lo è grazie all'etichetta, oppure pretendere carceri o CPT più democratici e civili, no, io questo non lo voglio e non voglio neanche sentirmi loro complice non facendo nulla per cambiare. E poi c'è la carogna per Genova, Carlo Giuliani, per la sua morte, per come è andata prima, durante e dopo. Che vuol dire prima, dopo? Ma tu te li ricordi i mesi prima del G8? Ti ricordi quanto è stato tutto mediatico? Quanta attenzione avevano le tute bianche nei media? Non ricordo quanto prima di Genova avevano preso l'abitudine a fare gli scontri mediatici. Tante immagini, tanta scenografia, tanti proclami, ma tutto finalizzato solamente ad apparire, anzi, nel comparire in un'istantanea. Gli scontri veri sono un'altra cosa, la rabbia e la violenza, quando esplodono, non finiscono in una foto. Non è che dopo un po' di spingi spingi in piazza poi tutto è finito. Quando inizia il casino vero, qualcuno si fa male, sia da una parte che dall'altra. La gente viene arrestata, menata e anche gli sbirri le prendono e le danno. non è che dopo il video o la fotina tutti se ne vanno come se non fosse successo niente. La guardo, immaginandomela al G8 tra il fumo urticante delle decine di candelotti lacrimogeni sparati dai carabinieri, cercando di resistere alle cariche, la guardo e mi accorgo che mi piace parlare con lei, mi sembra le piace starmi ad ascoltare. Comunque, tanto hanno detto e fatto che a Genova gli sbirri non aspettavano che loro. Degli altri gli sbirri non ne sapevano neanche l'esistenza. Tutti i peggio stronzi fascisti raccattati in tutte le caserme d'Italia non aspettavano altro che menare le tute bianche. Belli gli scudi di plexiglass, belli con le protezioni e tutto il corredo. Ogni pezzo di quelle protezioni è diventato trofeo per sbirri. Violeremo la zona rossa di qua, andremo di là, non sono riusciti ad arrivare manco dove gli avevano detto di andare, li hanno caricati e dispersi, e Carlo c'è rimasto, loro cercavano la visibilità mediatica, ma dall'altra parte c'era chi voleva loro, e se li sono presi, c'erano belve assetate di sangue, e se lo sono bevuti, e le tute bianche non sono riuscite a reggere lo scontro perché forse non erano preparate per qualcosa di vero. C'era quel corteo, forse gli sbirri erano incazzati con il blocco nero, non pensi? Ah, tu non sei dell'idea complottista, quella che dice che i Black Bloc erano infiltrati. No, ho degli amici che erano nel blocco nero, magari forse qualche sbirro infiltrato c'era, ma non sono stati loro a determinare, no. Chi ha assaltato il carcere di Marassi erano compagni. Bene, sono contento che la vedi così. Comunque potrà anche essere che gli sbirri fossero incazzati per il corteo del blocco nero, ma a me sembra più che altro che aspettassero le tute bianche. È sembrato un agguato, poi non so perché al mattino non abbiano caricato il blocco ma se la siano presa con tutti gli altri. È anche vero però che per loro non c'è differenza tra un pacifista, un anarchico, un autonomo, una tuta bianca. Siamo tutte zecche comuniste, lo sai anche tu. Certo che lo so anch'io, ma rimango dell'idea che sia successo tutto per colpa vostra o per buona parte, voi e i vostri espropri, incendi e tutto quanto. Ma che cazzo dici? Ripensa a quello che ti ho detto poco fa, riflettici, una volta usa la tua testa, non quella di Casarini, che per me è pure uno stronzo. Non mi prendere per un idiota, io uso la mia testa. Restiamo un po' in silenzio, camminando, poi molto più tranquillamente, in tono neutro e gentile, riprendo. Scusa lo sfogo, mi rendo conto benissimo che certe azioni non hanno incidenza più di tanto, però un po' di soddisfazione te la lasciano. Prova a pensare, immagina quanto sia bello vedere un McDonald's o una banca in fiamme. È una bella immagine, te l'assicuro. Ogni volta che fai un gesto così è liberatorio. Va a lenire quel senso di impotenza e frustrazione che spesso ci viviamo addosso. Ora per favore basta con questo argomento. Si è fatto tardi, accompagnami a prendere il bagaglio se ti va. Anarchist traveling circus that goes from summit to summit, moving from each summit with the sole purpose of causing as much mayhem as possible. In fact, their actions have nothing to do with anything other than a desire to cause violence that threatens the lives and indeed livelihoods of innocent people. And I would like to send the clearest possible signal that such protests must not and will not disrupt the proper workings of democratic organizations. Thank you.